Radio Wombat. Da sempre e obiettivamente la migliore. Buonasera, buonasera a tutti e tutte, benvenuti all'ascolto di una nuova puntata delle nostre consuete dirette. Regolo intanto i volumi, suoni. Ciao. Allora, non sembrano male, se lo sono vi invito a scrivercelo nel pad, il cui indirizzo ormai lo conoscete, rafanu.vado.li, lì ci si può... Ci potete contattare in diretta così o anche sul nostro indirizzo di posta, postawombat@insiberia.net. Sono ormai 3 mesi e rotti che andiamo avanti ogni sera alle 19 con le nostre consuete dirette, con la domenica culturale di Radio Wombat, il pomeriggio culturale dopo la trasmissione dedicata alla letteratura, poi You Eat, va in onda La fuga del gatto, la nostra trasmissione dedicata alla musica classica, e poi alle 19 cazzeggiamo ultimamente in realtà, perché le scorse trasmissioni, le scorse puntate sono state fatte dalla casa sull'albero, dove in effetti sono anche oggi. Però, mentre vuoi dire qualcosa, vieni, forza. Whee! Forza. Cosa devo dire? Ero sull'albero, ero un attimo in bagno. Sì, ho notato che constatavi qualcosa sull'Imo, giusto un attimo prima di iniziare. No, l'Imo, sì, parleremo anche di Imo, perché mercoledì mi pare, dobbiamo pagarla, ragazzi. Cioè, noi sulla casa dell'albero, no, perché essendo un albero... Non è edificabile. È casa, tra virgolette. Sì, sì. Abusi non paghiamo. Sì. Però, in teoria, serve... Imo. Va bene, come avete sentito c'è il professor Probo qui con noi. Lo avremo più avanti per... parla di che cazzo vuoi parlare oggi? No, è più che altro lo avremo più avanti. Speriamo più avanti nel tempo, anni a venire, sì. nel breve, nel minor tempo possibile. Anche più futuro possibile e nel minor tempo. Non solo, c'è con noi anche il maestro Ottani, i nostri due voci... Sì, maestro, di prego. Sì, salve. No, sono. No. Prego, maestro. Ciao. Si era preparato. Era molto meglio, vedi, che facevo io il maestro Ottani. Va bene, ma il vostro momento verrà, perché prima di tutto in realtà abbiamo... un nuovo ospite, benvenuto, sentiamo la voce. Ciao, ben arrivato, abbiamo oggi... Grazie. Ospite Andrea Simoncini di Contrabbandiera Editrice. Sì. Oggi abbiamo voluto continuare la nostra domenica culturale, siamo sull'editoriale e oggi abbiamo presentato nel pomeriggio il podcast, si potrà trovare da stasera su Poi You Eat, sulla sezione Poi You Eat all'interno di podcast sul sito di Radio Wombat. Abbiamo presentato la nuova antologia poetica di Affluenti con molte voci di autrici ed autori da Firenze e dintorni. Rimaniamo anche a Firenze con la letteratura, perché siamo assieme appunto a Contrabbandiera Editrice, una giovane casa editrice fondata da poco, vero? Sì, e che a differenza del professor Probo e del maestro Ottani lavora, lavoro. Io insieme a mio socio e collega Marco Tangocci e Federico Ricci abbiamo da quest'anno inaugurato questa casa editrice, Contrabbandiera Editrice, che non è solo una casa editrice, è anche un progetto editoriale che comprende da sfogo alla volontà di promuovere l'autoeditoria, perché è importante riappropriarsi dei mezzi per diffondere la cultura, per diffondere il sapere, per condividere le competenze e i saperi che abbiamo, che ognuno di noi ha e che è giusto riversare nel mondo per renderlo un po' migliore. E noi di tutto questo vogliamo parlare oggi, ma anche del primo libro che verrà pubblicato quest'anno da Contrabbandiera, ne parleremo fra pochissimo. Prima di tutto io però vorrei un attimo ancora qua il professor Probo per ricordarci come sempre i contatti, vai! Perfetto, allora i contatti possono essere di carattere visivo, fisico, sensitivo, perché sì. Esistono anche, sono spesso romantici, a volte... Prego. Primo tipo. Primo tipo. Primo tipo. Fenomenologia del primo tipo, dei tipi. Dei tipi. No, allora, cioè... Credo assolutamente di sì, tanto a casa sull'albero sai bene che è su un albero proprio perché comunica non tanto con quello che c'è a terra, ma un albero a che cosa aspira, maestro? A che cosa aspira? Al cielo. Al cielo. Anche oltre. Quindi, ok, quindi primo tipo. Primo tipo. Vediamo se hai studiato. Primo tipo. Quando ci provi con una ragazza, o ci provi con una ragazza, ma lei non esiste. Questo è il primo tipo. È capitato. Ok, secondo gli altri tipi ce li teniamo per dopo. Mi rimpossesso del microfono. È facile cadere in basso. Dalla casa sull'albero ti fai anche male, visto che appunto siamo sull'albero, per ricordare che il po... Sì? Vuoi dire... No, ma viva gli alberi, c'hanno la carta, sì, basta. Sì. Giusto. Sì, ci penso io. Posta Wombat. Posta Wombat, chiocciola. In Siberia.net. È più bravo l'editore di voi altri, alla settima perché puntata. Ho studiato, lavoro, e poi mi pagano. Oppure il wombat.noblogs.org, mentre potete ascoltare questa trasmissione e tutte le altre anche sulla frequenza 1359 AM della vostra bellissima radiolina. Siete quasi licenziati, voi altri. Allora, io voglio mettere subito una canzone. Oggi sto facendo un casino pazzesco con i volumi, ma eccomi qua. Voglio mettere subito una canzone e poi direi che iniziamo velocemente a parlare assieme ad Andrea Simoncini e Contrabbandiera del libro di prossima pubblicazione, cioè Miti e Molotov di Margaret Killjoy, di prossima pubblicazione in italiano, vero? Avanti. Oggi che canzone sto per mettere? Allora, me la sono preparata, il resto sarà molto più improvvisato, ma oggi è il 90, sarebbe stato il 92esimo compleanno del Che Guevara, lunga vita Ernesto Guevara, e allora... abbiamo pensato alla canzone, la mia canzone preferita sul Che, quella degli Schiantos, la canzone per il Che degli Schiantos, e poi torniamo con Contrabbandiera editrice Wombat. Sono quasi sicuro di aver sbagliato canzone. Questa è Guccini. Ok, lasciamolo un secondo. Lascio Guccini in sottofondo mentre cerco la canzone. Sono gli Schiantos che no, fanno il tributo a Guccini. È pallosissima, è pallosissima. Sì, prego, tu... microfono. Iniziamo. Una prima ansia, però me la spreco subito. Un'ansiettina. Allora, Francesco Guccini ha detto ieri, io sono il primo in famiglia a compiere 80 anni. Ha fatto il compleanno Francesco. Ah, auguri. Risposta di Giampiero Galeazzi. Ha detto: io il primo in famiglia a raggiungere gli 800 kg. Bene. Le sue gabbie d'animali elettrodomestici. Quindi la canzone. Ma l'avanguardia è è difficilissimo trovarla. Ma lascia perdere. No, ci tengo, tanto c'è Guccini sotto fuori. Verso il cammino lento della piena libertà. Ale, ale! Che Guevara, viva que viva que viva, viva Che Guevara,

sbagliato con la base. Intanto, allora, davvero tante grazie ad Andrea Simoncini di Contrabbandiera Editrice. Contiamo di riaverti presto i nostri microfoni per le prossime pubblicazioni. E, nel frattempo, se ti va di rimanere ancora un po' qua sulla casa, sull'albero, a vedere se funziona l'idea di messa a terra tramite il tronco, che cazzo sto dicendo? Così poi ritorniamo con Professor Probo, Maestro Ottani e, se vuole, Editor Simoncini ancora con noi. Mettiamo un breve stacco musicale a fra pochissimo. Restate in contatto sulle 13.59 AM di Radio Wombat. Wombat. Viva, grazie! We'll be right back. Eccoci, rieccoci in diretta sulle consuete frequenze 1359 AM. Donna Mario, che palle quello di prima, ma chi era? L'editore, un po' di cultura. Ragazzi, ogni tanto. Editore, a parte che ha detto... Professore, ogni tanto un po' di cultura. A parte che ha detto, ha dato a me del nulla facente, e tra l'altro io avrei un titolo. Professor. Professor. Poi anche a Maestro Ottani, che ci sta, mi sembra, architettando una grande opera. Ci sta chitando una grande opera, maestro, ci sei? È una grande opera, ma non è mia. Strano. Allora no, solo per i gentili ascoltatori io faccio notare che intanto sto per rinunciare al mio microfono a tutto vantaggio del maestro Ottani. L'altro lo ha il professor Probo. Ho il controllo della base, a un certo punto spengo tutto, eh. Tu la base, a noi le altezze. A voi la base, maestro. Su con la base. Socialmente, economicamente, filosoficamente, sola legge del mondo. Espressione mascherata di tutti gli individualismi, di tutti i collettivismi, di tutte le religioni, di tutti i trattati di pace. Ho fame. To be or not to be, that is the question. Contro tutte le catechesi e contro la madre dei gracchi. Mi interessa solo ciò che non è mio. Legge dell'uomo, legge dell'antropofago. Siamo stanchi di tutti i mariti cattolici sospettosi messi in scena. Freud l'ha fatta finita con l'enigma donna e con altre paure della psicologia stampata. Quello che ostacolava la verità era l'abbigliamento, l'impermeabile tra il mondo interiore e il mondo esterno. La reazione contro l'uomo vestito, il cinema americano informerà. Ho fame. Dirompenti. Grazie per averlo chiesto, prof. Grazie. Questo è il manifesto antropofago di Oswald de Andrade, uno scrittore brasiliano che facente parte della corrente modernista in Brasile, che ha luogo dagli anni 20 in poi e si protrae fino alla fine degli anni 50, inizio degli anni 60 più o meno, con ovviamente i suoi anni caldi e più prorompenti sul finire degli anni 20 e tutti gli anni 30. E quindi avanguardia, diciamo. Avanguardia, un'avanguardia che arriva dall'Occidente ma che se ne vuole totalmente distaccare, anzi se lo vuole mangiare. Sostenitori, tra l'altro, mi dicevi prima, il Partito Comunista Brasileiro. Sì. Right? Sì. Sono abbastanza tutti tra il simpatizzante e l'iscritto. Beh, che penso sia una prende un po'. Giusto. Come tutti i manifesti, è molto figo. Molto figo. Tra l'altro c'è un film, si chiama proprio Manifesto, che io vi consiglio. Ora, insomma, mai stato così serio con queste frequenze. Si chiama proprio Manifesto con Kate Blanchett. Come? Frequenze. Manifesto con Kate Blanchett, che recita tutti, buona parte dei manifesti dell'arte, della politica del Novecento. Bellissimo. Lo trovate tranquillamente anche in streaming, senza dare soldi alla povera Kate, che tanto, a parte farsi di cocaina, non ha speso. Sì, ma c'è anche questo manifesto che tu sappia? No, purtroppo mi sembra proprio di no. Però ce ne sono simili, molto dirompenti anch'essi e molto fighi. Però questo, vedi, qual peccato, peccato. qual è il problema a non farsi assistere da qualcuno tipo me nella realizzazione di un film. Ma anche solo, ma per un discorso umile a mio avviso, anche solo non collegarsi a Radio Womba tra domenica. Esatto, esatto, se... siete dei pazzi se non lo fate. Figli del sole, madre dei viventi, trovati e amati ferocemente, con tutta l'ipocrisia della nostalgia, dagli immigrati, dai trafficanti e dai tourist, nel paese del cobra grande. E perché non abbiamo mai avuto grammatiche né collezioni di vecchi vegetali, e non abbiamo mai saputo cosa fosse urbano, suburbano, di frontiera e continentale. Pigri nel mappamondo del Brasile. Una coscienza partecipante, una ritmicità religiosa, contro tutti gli importatori di coscienza in scatola. L'esistenza palpabile della vita e la mentalità prelogica che il signor Levi Brühl studierà. Vogliamo la rivoluzione caraibica. Rivoluzione caraibica. Ma prof non ci ha preso, secondo okay, me. Ok, forse no. Non era quello di Oswald. Oswald. Che ricordiamo è Oswald G. Andragi, fra l'altro citato dal nostro famoso Fabrizio De André nella canzone La Domenica delle Salme. Assolutamente sì, assolutamente sì. Che diceva? Il mio illustre cugino non De Andrade. De Andrade, certo. Che pronunciandolo male, fra il resto, perché no, se ma dobbiamo... chiaramente fatto apposta. Chiaramente De André, fatto apposta. De Andrade. Esatto, perché cogliere l'assonanza. Certo, perché è scritto De Andrade. De Andrade sarebbe proprio la traduzione letterale di De André. Certo, infatti è figo. È molto figa questa cosa. E... anche Guccini fece la stessa cosa nella locomotiva, disse Guccinade. Cucinaggi era invece cugino cucinaggi. Vero. No, praticamente nella faceva anche battiaggi, vabbè, insomma. Battiaggi. Battiaggi. Sulla battigia di battiaggi. Allora, dicevo nella canzone della Domenica delle Salme, infatti vorrei anche sottolineare la assonanza tra il dialetto genovese e il portoghese. Per favore, qualcuno ce la può spiegare storicamente e linguisticamente? Questo è un appello. Forse l'editore. No, non lo fa l'editore, lo fa il professore. La soluzione è il mare. Oh. Questa te l'ha suggerita. Dovrebbe fossare. Esatto, te l'ha suggerita. No, è chiaramente il mare, ragazzi, ma scusa. Colombo era genovese. Pensi che sia un caso? No. Navigatori. Navigatori. Wow. Esatto. Tra l'altro, appunto, i navigatori anche italiani non erano mai finanziati chiaramente dallo Stato italiano, perché non c'era nel Cinquecento, e quindi erano finanziati da spagnoli come Colombo o anche alla marina portoghese. Dai portoghesi, infatti Colombo si rivolge a Colombo aragonesi, spagnoli. Agli aragonesi spagnoli. Però non a caso. Però in realtà chiese, se non erro, ora le mie conoscenze in campo coloniale si vanno da Montanelli in poi, cioè, quindi gli ultimi periodi, ecco. No? Però mi sembra, se non erro, che chiese anche finanziamenti alla corona all'epoca portoghese, però fu picche la risposta. Ah, Pice. Pigiaggi. I pigiaggi di storia portoghese. Quindi poi è andato agli aragonesi e Caterina o Isabella Aragona, so una sega io, diede appunto queste tre signore che erano poi delle navi. Lui voleva in realtà, aveva chiesto Nina, Pinta e Sant'Antonio, disse bene, se tromba, invece no, erano navi. Porca madonna, mi tocca andare davvero. maestro ha tirato sulla base qua. Vediamo la rivoluzione caraibica, più grande della rivoluzione francese, l'unione di tutte le ribellioni vittoriose rivolte all'uomo. Senza di noi l'Europa non avrebbe neanche la sua misera dichiarazione dei diritti dell'uomo. L'età dell'oro annunciata dall'America. L'età dell'oro e tutte le girls. E qui ci sta molto meglio, in realtà. Cosa intendeva Oswald con tutte queste girls? Lasciamo un punto interrogativo e ci apprestiamo a svolgere un'approfondita analisi del testo per la prossima puntata. Le ricordiamo ricordiamo il titolo, il manifesto del manifesto antropofago. Filiazione. Contatto col Brasile caraibico. O Villegognon Printer. Montaigne. L'uomo naturale. Rousseau. Dalla rivoluzione francese al romanticismo. Alla rivoluzione bolscevica. Alla rivoluzione surrealista. E al barbaro tecnicizzato di Kaiserling. Avanti. Mai stati catechizzati. Abbiamo vissuto in un diritto sonnambulo. Abbiamo fatto nascere Cristo a Bahia o a Belen do Pará. Ma non abbiamo mai ammesso la nascita della logica tra noi. Contro padre Vieira, autore del nostro primo prestito per guadagnarsi gli interessi. Il re analfabeta gli aveva detto: metti questo per scritto, ma senza molte chiacchiere. Venne fatto il prestito, venne tassato lo zucchero brasiliano. Vieira lasciò il denaro in Portogallo e ci portò le chiacchiere. Lo spirito si rifiuta di concepire lo spirito senza il corpo. L'antropomorfismo. Necessità del vaccino antropofagico per l'equilibrio contro le religioni di Meridiano e le inquisizioni esterne. Possiamo solo badare al mondo orecolare. Avevamo la giustizia, codificazione della vendetta. La scienza, codificazione della magia, antropofagia, la trasformazione permanente del tabù in totem, contro il mondo reversibile e le idee oggettivate, cadaverizzate, lo stop del pensiero che è dinamico, l'individuo vittima del sistema, fonte delle ingiustizie classiche, delle ingiustizie romantiche, e l'oblio delle conquiste interiori. Mappe. Mappe. Mappe. Mappe? Mappe. Mappe. Allora, aspetta, sto prendendo appunti. Allora. Mappe. Ok, mappe. Dice mappe. Mappe. Google anche. Mappe. Mappes. Mappets. Mappets. Esatto. Quante volte lo dice mappe? Scusaci, caro Oswald. Quante volte lo dice mappe? C'è sette volte. Sette e volte. Il numero sette non è casuale. Ci insegna. Beh, ce lo insegna, a parte la Bibbia. La Bibbia è buona. La Bibbia è buona. Poi qualcuno banalmente direbbe le note, ma in realtà vi smonto subito, cari amici. Subito. Le note non sono sette. Pezzi di merda. Basta. Le note basta. Musicali sono 12. 12. In possiamo indicarle. Occidente, in Italia. Esatto. Possiamo indicarle. Fall. Lab. Man. Till. E song. E rule. Ok. Mappe. Mappe. L'istinto caraibico. Morte. parte e vita delle ipotesi. Dell'equazione io parte del cosmo, all'assioma cosmo parte dell'io. Sussistenza. Comoscenza. Antropofagia. Contro le élite vegetali. In comunicazione col suolo. Non siamo mai stati catechizzati. Quello che abbiamo fatto è il carnevale. L'indio vestito da senatore dell'impero, fingendosi Pitt, o figurando nelle opere di Alan Carr, pieno di buoni sentimenti portoghesi. Avevamo già il comunismo, avevamo già la lingua surrealista, l'età dell'oro. Cacici, cacici, Imara, nocià, nocià, Imara, i Peugeot. Mappe. Peugeot e mappe. Io ho perso. La magia e la vita. Avevamo la descrizione e la distribuzione dei beni fisici, dei beni morali, dei beni di corte. E sapevamo traslare il mistero e la morte con l'aiuto di alcune formule grammaticali. Ho chiesto a un uomo cos'era il diritto. Mi ha risposto che era la garanzia dell'esercizio della possibilità. Quest'uomo si chiamava Galli Macias. Me lo sono mangiato. Non c'è determinismo solo dove c'è mistero. Ma che c'entriamo noi con questo? Proprio cosa c'entriamo noi con questo? Non lo so, e poi con questo non c'è più mangiato. È incredibile, più surrealista del manifesto surrealista. Molto più surrealista, sì sì. Lo rivendica come suo prima del surrealismo. D'altronde anche il comunismo, incredibile. In effetti, se ci pensiamo a quella che poteva essere la cultura panamericana pre-conquistadores, forse si avvicina a qualcosa del genere. Gli storici ci diranno sicuramente di no, perché era probabilmente una società classista estremamente piramidale. Mi viene in mente, ma chi sono gli storici per insegnarci la storia? E soprattutto per insegnarla a Oswald. Assolutamente. Ormai mi sento di chiamare per nome. Quella base su? Yes. Contro le storie dell'uomo che cominciano a capo Finisterra, il mondo non datato, non schedato, senza Napoleone, senza Cesare. La stabilizzazione del progresso per mezzo di cataloghi e televisori, solo la macchina e gli apparecchi per le trasfusioni. Contro le sublimazioni antagoniche portate nelle caravelle. Quelle che dicevamo prima, mi sa che adesso sta riferendo proprio a quelle. Comunque vedi che ho avuto due suggestioni, ma ho anticipato tutto il discorso, no? Potrebbe trattarsi di un caso di reincarnazione? Del secondo tipo? Del secondo tipo, vedremo, vedremo. Contro la verità dei popoli missionari, definita con la sagacità di un antropofago, il visconte di Cairo. È la menzogna molte volte ripetuta. Ma non erano crociati quelli che vennero. Erano fuggiaschi di una civiltà che stiamo mangiando, perché siamo forti e vendicativi, come il Jabuchi. Se Dio è la coscienza dell'universo non creato, Guaraci è la madre dei viventi. Yaci è la madre dei vegetali. Non abbiamo avuto la speculazione, ma avevamo la divinazione. Avevamo politica, che è la scienza della distribuzione, e un sistema social planetario. Le migrazioni, la fuga dagli stati noiosi, contro le sclerosi urbane, contro i conservatori e il tedio speculativo. Da William James a Voronoff, la trasfigurazione del tabù in totem, antropofagia. Il pater familias è la creazione della morale della cicogna, ignoranza reale delle cose, più più mancanza di immaginazione, più sentimento di autorità di fronte alla prole curiosa. Bisogna partire da un profondo ateismo per giungere all'idea di Dio, ma il caraibico non ne aveva bisogno, perché aveva guaraci. E la tequila? La finalità creata reagisce come gli angeli della caduta. Poi Mosè divaga. Che c'entriamo noi con questo? Se lo ripete ancora una volta, e secondo me è la domanda giusta. Cosa c'entriamo noi con questo? Un giornalista, comunque tutto sommato un professore, e un ufologo anche... Cosa c'entriamo noi cosa con questo? Cosa c'entriamo con questo? Non so, io ripeto, ho fame. Bene. Mette fame. Manifesto dell'antropologia. Soprattutto se tra i tuoi gusti ci sono gli esseri umani. Beh, no, sempre stato. Ma io vorrei a questo punto, visto che stiamo colonizzando tra l'altro questa trasmissione, un commento a caldo su tutto questo del nostro Mario, insomma. Un commento a caldo. Cosa pensiamo, cosa pensa la voce di Radio Wombat del manifesto antropofago? Right? Cioè, antropofago. No, perché a me interesserebbe chiarire che cosa abbiamo letto. Allora, questa è un'ottima domanda. Cosa cazzo è successo? Questa è un'ottima domanda. Allora, ora mi sento io in caso di rispondere. Sì, prego, certo. Maestro Tani. Lascio la base un po' in sottofondo. Sì, fai quello che vuoi. Allora, che cosa abbiamo letto? C'è da partire da un presupposto di base. Non ne ho la minima idea. Quindi, ma non mi esimerò dal rispondere. No. Allora, ho fatto università così, ok? di certo non mi fermerò qui per voi, ipocriti caraibici. Dacci dunque una risposta. Che cosa abbiamo letto? Che cosa ci facciamo? Partirò dall'ultima domanda. Che cosa ci facciamo noi qui? Sì. Si chiedeva l'Andragi. Che c'entriamo noi con questo? Prego, con Crobo. Tutto questo, sì, mi permetto di correggere l'Andragi. Allora, attualizzarlo direi più che attualizzarlo, correggere. Perfetto. Come diceva il maestro, un ufologo, dichiaratosi tale, perché se posso, un piccolo attacco, se posso permettere, un professore, anch'esso dichiaratosi tale, che impunemente va ogni mattina alla scuola di Isaac Newton, il vostro paese, il vostro paese in caso l'ha dichiarato tale, non di certo io, e una voce di Radio Wombat, una radio, e tra l'altro mi posso permettere... Mi ha chiamato giornalista, ora non mi fare... Giornalista, una umile voce artigiana di Radio Wombat, una radio tra l'altro pirata, io sono ospite, però devo, da un certo punto di vista... Che questa casa sull'albero, secondo me, che questa casa non... allora. Tra l'altro, aspetta, ci sarebbe una piccola ansia... Un'ansietta. Poi torniamo... Una piccola ansia sull'IMU. Ah, sull'IMU, sì, ce l'hai? Voglio cambiare base, aspetta, c'era quella più rossueliana di prima. Hai sentito che bella base? Assolutamente no, ma non me ne frega un cazzo. Non hai le cuffie, lo so. L'ansia, si può dire l'ansia? Sì, si può dire l'ansia. Allora, sì. martedì scade il pagamento dell'IMU, ok? Noi della Casa sull'Albero non ce ne frega un cazzo, perché però siamo per abusivi. Coloro a casa, insomma, avete due opzioni. O pagare, no, prendere i voti, cioè anche prendere i voti, semplicemente, buona, molto buona. C'è l'altra opzione, questo sotterfugio, si può tranquillamente... Ma secondo me se mettiamo un crocifisso qua sulla casa sull'albero la svoltiamo anche. Sì, però tra l'altro sarebbe un po' un conflitto di interessi, perché corretti visto il legno con il tronco e l'albero, è come dire, si mette magari, si fa un soppalco in muratura. No, di no. Solito si fa sempre, se ci fai caso, sì, prego. Mario, all'interno delle case sì. Si mettono sempre oggetti strutture che non sono dello stesso materiale, tipo l'intonaco. Cioè, hai mai fatto un letto di intonaco? No, in cemento? Infatti, devo ammettere. Allora, questo io me ne sono accorto. Me ne sono accorto. Quindi si fa o in legno, se vuoi essere più modernista, citando il maestro precedente, sì. Ottaniano. In acciaio. Va bene, magari. Voglio troncare questo discorso, maestro. Tornando invece a noi, sono quasi sicuro che quando hai letto conservatori l'originale fosse conservatori. Ma tu, maestro, quale sei? Ti sei fatto influenzare dalla tua cultura classicista e musicologica? Allora, a salvezza della mia comunque pronuncia, maestro, te sei, cioè, un maestro, ma col microfono non ci sai fare. Guarda come facciamo io, okay, bravo, okay. Sì, a, sì. A salvezza della mia pronuncia, sì, c'è un accento. Wombat. C'è assolutamente un accento, e noto anche che è pieno di maiuscole questo testo. Hai ragione comunque, maestro, bravo, sei il maestro, non a caso. Anche questa l'ho scampata. Base. Allora, base, quella di prima? Base. Ai tuoi ordini. Base. Aspetta, te lo faccio sentire. Col delay giusto, gli ascoltatori però si godono la base intanto. Senti che bella base ti ho messo. Il pater familias è la creazione della morale della cicogna. Ignoranza reale delle cose, più mancanza di immaginazione, più sentimento di autorità di fronte alla prole curiosa. Che c'entriamo noi con questo? Prima che i portoghesi scoprissero il Brasile aveva scoperto la felicità. Contro l'indio con la fiaccola, l'indio figlio di Maria, figlioccio di Caterina de' Medici e genero di Antonio Gimaris. L'allegria è la prova del nove, nel matriarcato di Pindorama. Contro la memoria, fonte del costume, l'esperienza personale rinnovata. Siamo concretisti. Le idee si danno da fare, reagiscono, bruciano persone nelle piazze pubbliche. Eliminiamo le idee e le altre paralisi attraverso le mappe. Credere nei segni, credere negli strumenti e nelle stelle. Mappe. Contro Goethe, la madre dei Gracchi e la corte di Don João VI. L'allegria è la prova del nove, la lotta tra quello che si chiamerebbe non creato e la creatura, illustrata dalla contraddizione permanente tra l'uomo e il suo tabù, l'amore quotidiano e il modus vivendi capitalista, antropofagia, assorbimento del nemico sacro per trasformarlo in totem, l'umana avventura, la terrena finalità. Tuttavia, soltanto le pure elite sono riuscite a realizzare l'antropofagia carnale, che reca in sé il più alto senso della vita e evita tutti i mali individuati da Freud, mali catechisti. Ciò che c'è non è una sublimazione dell'istinto sessuale, è la scala termometrica dell'istinto antropofagico. Da carnale esso diventa elettivo e crea l'amicizia. Affettivo, l'amore. Speculativo, la scienza. Si sposta e si trasferisce. Siamo arrivati allo svilimento. La bassa antropofagia agglomerata nei peccati del catechismo, l'invidia, l'usura, la calunnia, l'omicidio. peste di cosiddetti popoli colti e cristianizzati. È contro di essa che stiamo agendo, antropofagi. Contro Ancieta, che canta le 11.000 vergini del cielo, nella terra di Iracema, il patriarca João Ramalho, fondatore di San Paolo. La nostra indipendenza non è ancora stata proclamata. Frase tipica di Don João VI. Figlio mio, mettiti questa corona sul capo prima che lo faccia qualche avventuriero. Abbiamo scacciato la dinastia. Bisogna scacciare lo spirito bragantino, gli ordinamenti e il tabacco di Maria da Fonte. Contro la realtà sociale, vestita e opprimente, schedata da Freud, la realtà senza complessi, senza follia, senza prostituzioni e senza penitenziari del matriarcato di Pindorama. A Piracininga, anno 374, dalla deglutizione del vescovo Sarginio. Va bene, il momento di una canzone intonata. Intonata la situazione, poi ci risentiamo per i saluti. Sì, sì. Va bene, la abbassiamo, tanto erano po' stelle, chi cazzo se ne frega. Eccoci, eccoci, eccoci, perché suonava il campanello dell'ansietta, l'ansietta, la canzone si chiamava comunque Maestro Antropofagus. Bravo, bravo, sono stato molto bravo. Abbiamo anche da mettere l'ansietta, a proposito, allora, incredibile, tutte ansie, quindi il mondo, non è un caso questo Mario, il mondo sì. Si è commisurato a questa lettura, perché... Ansietta del Brasile, allora sì, certo. Ci ascoltavano dal Brasile. Drammatica, drammatica? Diciamo. No, non drammatica, però triste semplicemente. Sì? Il Brasile ha raggiunto ieri i 41.828 morti. Parlavamo appunto di luoghi brasileiri, sudamericani. 41.828 morti ora, sei dall'inizio. Sì, per favore non scivolare, sei sul crinale da ora e poi, te lo dico. No, ma io quando parlo di morti lo sai che sono. Sì, certo. 41.828 morti dall'inizio della pandemia. No, è semplicemente informativa, niente di più. L'Umbria ancora 76. Allora, a proposito di morte, ecco, restiamo un attimo... Vuoi una notizia sulle Marche, su Domodossola? Sì, siamo dimmi in termini, magari dov'è Domodossola, in quale regione? Territori sconosciuti. Aspetta, dimmi. Mappe. Mario, dimmi dov'è Domodossola. Mappe. Perfetto. Consultatene. Allora, Marche, la mia regione di origine, Marche, coronavirus, solo 4 positivi su 585 nuove. Quindi è una notizia positiva. 585 abitanti. 585 nuove diagnosi. Solo 4 positivi. Che... Però questo vuol dire che comunque i vostri medici fanno schifo perché ha del diagnosticare le malattie. Ok, no, vabbè, sì, questo è un dettaglio, però noi marchigiani... Aspetta, ma che vuol dire 4 positivi su 500? Allora, hanno fatto 585 tamponi negli ultimi 2 giorni. Va bene. Ok? Sì. Io prendo notizia da Lanza, Lanza dice diagnosi. 585, ma sì, la interpreto su via, diciamo, sì, tamponi, sì. Solo 4 positivi, una notizia positiva, i medici spiegano, l'eroina rende immuni. Cioè, la vuoi quella di Domodossola? Dov'è Domodossola? L'eroina fa approfittare, quindi l'app immuni. Sì, sì. Rende immuni. Rende immuni. guarda, detto sì. Così in realtà linguisticamente potrebbe essere anche immuni rende l'eroina, quindi se rende può essere sia restituisce sia fa sì, esatto. Quindi, sì. Vabbè, ne parleremo. Domodossola, sì. Provincia di Lodi. Perfetto, lontanissimo. Insomma, dai. Domodossola, allora c'è un ragazzo, un 28enne. Questo è provincia di Domodossola. Domodossola. Domodossola non è provincia di Domodossola, non ci sarebbe. Comunque. Ma quindi non esiste una città con la D più grande di Domodossola in Italia? Con più grande, nel senso più lunga la parola? No, più adatta a essere utilizzata nel gioco La ruota della fortuna, capito? D di Domodossola. Sì, però si può dire. Dai, allora, tipo quando, la D. Sì, sì, sì, sì. La D di Dio, dice, difficilissimo per una centralinista capire. No, infatti, no. A me piacevano soprattutto quelli che usavano i nomi delle città, faccio questa divagazione. Poi sì. C'erano anche quelli che usavano le parole delle cose, però non mi stavano simpatici, tipo F di Farfalla, non è sempre ridere, ritardato, no. Infatti. Ogni tanto qualcuno usava anche i nomi, tipo diceva... La F però... di Fabio, per esempio, rende, secondo me. La F di Fabio, infatti c'era chi usava i nomi, infatti, esatto, Fabio, però quello che mi scoglionava a me era la M di Mike. Cioè, perché nessuno, obiettivamente. Ma chi l'ha mai usata? Sì, quelli che vanno a giocare la ruota della fortuna, Mike, buongiorno conduttore. La M era un piccolo omaggio, un po' di leccaculaccine. Sì. Chissà che cosa c'è qua sotto. Va bene, prego, provo. Parlavamo di Domodossola. Sì. Notizia a metà tra il drammatico, che in realtà poi non è successo nulla, è sito positivo. Un 28enne, domodossoliano a questo punto, sì. È stato beccato ieri sera con un tasso alcolemico 7 volte oltre il limite. No, Piemonte. Maestro, commenta il maestro. Però comunque, no, tra l'altro in Veneto cioè, il limite è il doppio del resto d'Italia, quindi è anche difficile. Vabbè, comunque, tasso alcolemico 7 volte oltre il limite, 28enne finisce con l'auto contro una casa. L'auto era la sua, la casa no. Questo è un dettaglio, insomma, ci tenevamo. Ecco, No, mi sono distratto perché stavo in realtà andando a vedere dove era la provincia di Domodossola. Ecco, vuoi dirlo? Sì. No, allora, la città, il centro principale della provincia, lo sai? Il centro principale della provincia? Sì, di sì, che sì, cosa? Sì, sì, sì. Qual è la provincia a cui appartiene professore, che allora, insegna anche geografia a scuola? Allora, tra l'altro, non insegno geografia, ma insegno... vita. Sì, devo rimettere la base. Laureato in vita, in strada e non. Sì, no, sto facendo casino. Si sa, in provincia di Bologna. No, è in provincia di Verbano Cusio Ossola. Terre famose, note allora, per celebre. Perché di recente rivoluzione politico-geografica hanno creato queste province. È una triade, vero? Sì. Anche sì. In Abruzzo c'è una roba simile che è tipo l'Aquila, sì. so una sega. No, l'Aquila se la gioca da sola. Allora è un'altra, vabbè. Hanno fregato l'Aquila, no. No, forse l'Aquila. Vabbè, comunque. Come si chiamava il ministro che ha provato a riformare le regioni non riuscendoci, creando solo 10 città metropolitane? Posso dirlo? Prego. Pannella. Assolutamente vero. Ok, chi era? Capabianca, la del PD, il belloccio, come si chiama? Capabianca sì, del sì, PD. Testa bianca, giovane. Del Rio. Ah, del Rio. Quindi io mi sono distratto su Domodossola, tu dove eri già finito? Ero finito a Catania. Catania, sì, guardia sì, di finanza, intercetta un contrabbando di pesce fresco e sequestra una tonnellata di tonni rossi. Una tonnellata, scusate, ho letto male, una tonnellata. Sì, va bene, grazie. Grazie, bella. Tra quelle evitabili. Simpatica, okay, no, a parte scherzo, Bologna è morto, questo si sta drammatico. Dai, basta. Solo sono morti. Sì, mi rendo conto. Sequestri e morti. Allora, Bologna è morto all'ospedale Maggiore, un anziano rimasto coinvolto ieri in un incidente stradale mentre era a bordo, non è uno scherzo, sì. A bordo del suo monopattino. Ah, sì. Delusi, annunciamo, non era Mario Giordano. Non so. Bravo. Vogliamo volare in India o restiamo in Italia? Restiamo in Italia e poi voliamo in India? Facciamo così. Caso Regeni. A te, ti piace proprio quella, okay. Quella linea lì dove basta un passettino? Ok, prego, vediamo. Ok, no, incredibile, sono solo notizie sulla morte, mi rendo conto. Sì. Caso Regeni, Renzi, ma so parole di Renzi, non fa... No. Renzi, due punti. È il momento che gli inglesi ci dicano la verità. Preferibilmente coi sottotitoli, così posso capirla. È vero. Vuoi volare in India? Aspetta, come? Vuoi volare in India? Sì, mi sto già librando. È sempre a morte, è morto qualcuno. India. A Mumbai, star di Bollywood trovata morta a 34 anni. Ora insegnerà agli angeli a mangiare piatti con il curry. Non faceva assolutamente ridere questo. Non ha nessun senso questo. Lo so, però era buona perché mi piace il curry. Senti, provo, ma io per concludere questa rassegna voglio tornare in Italia, voglio tornare qua vicino a Firenze. No, torniamo in Italia. Precisamente allora. Io vorrei andare a Champs-sur-les-Bisons. Allora, Champs-sur-les-Bisons, tradotto in francese sarebbe? Campi sul... Era francese. Sì, sì. Campos sono le Bisons. Allora, Firenze, nata. Perché ripeti? No, per dare clamore. Ok. Nata oggi o ieri? O l'altro ieri? Ieri. Giovane star del giornalismo toscano. Sì. Festeggiamola. Grossi, sì. Irene, tanti cari. Salut. Va bene, il maestro se n'è andato. Ora possiamo vedere. Ora che non c'è. Un secondo, aspetta. Ma che cazzo ha letto? Non ci ho capito niente io. Di cosa ha letto? Allora, il maestro. Seriamente. Però quando torno dobbiamo diventare seri. Ma che. Parliamo chiaro. Assurdo. Parliamo piano. Cioè, io faccio tanto il coglione, ma alla fine sono serissimo. Cioè, ma questo ragazzo è scemo. Ha letto. Che cos'era? Ma non lo so cos'era. Cos'era, davvero? Non lo so. Un manifesto dell'antropofagismo. Quello è l'ienologo. L'antropofagismo. Mi è piaciuta la fine comunque. Deglutire il vescovo. No, per carità. Deglutire il vescovo. Anche mi è piaciuto. In realtà, a me è piaciuto molto. Però, ragazzi, sì, non la era realtà scritto. È dove le trova queste cose? Dove le va a cercare? E se non le cerca? Forse non le cerca, ma le trova? Forse gli ha detto Malanga. Malanga, Corrado? quello che forse inviteremo in questa trasmissione, magari. Allora, perché questa, ricordo gli ascoltatori, era la terz'ultima puntata delle nostre dirette domenicali. Vogliamo arrivare a 3 mesi e mezzo, così, e quindi ci faremo le prossime 2 puntate qui dalla casa sull'albero. Tornerà un altro glorioso personaggio assieme a noi, ovvero il giovane Di Fabrizio, insieme a professor Probo e musicologo, etnologo, antropologo. Antropofagologo. Ah no, è la base che si è abbassata, va bene, colpa mia. Va bene, allora, noi adesso dobbiamo andare a cucinare. Perché abbiamo ospiti, chi viene a cena proprio? Allora, sì. Qui sulla casa dell'albero ci sarà, tra l'altro, ospite fisso del prossimo mese, non su Radio Wombat, ma in casa dell'albero. Tonio Cartonio, sì. reduce da 6 anni di psicanalisi. Quindi, tra l'altro, Si ambienta e comunque. Sì, Tonio. Sì, Tonio Cartonio. Stasera cena da noi. Mangeremo la scivolizia. La scivolizia. E berremo del buon Blumele. Sì. Sì, Blumele, scivolizia per tutti. Lupo Lucio. Lupo Lucio, esatto, lo sapevo, infatti l'ho citato apposta. Mio personaggio preferito. Semplicemente è morto. Non... Maestro, vieni a far salutare gli ascoltatori, vai che si chiude. Antropofagia. Vi è venuta un po' fame, vero? Antropofagia. Maestro. Va bene, ringraziamo quindi per la puntata ancora di oggi il maestro Tani, antropofagia culturale neomodernista brasiliana, postcomunista, neoideologica, rivoluzionaria, no colonialismo. Antropro profugo. Antonio Profobo, che ci dà la buona serata a tutti. Ringraziamo Andrea Simoncini, contrabbandiera editrice, anche per oggi siamo riusciti ad acchittare almeno una mezz'ora in serietà. Ci sentiamo domenica prossima con le solite dirette quotidiane. Non ve lo consigliamo, ma il podcast si potrà riascoltare da stasera qui su wombat.noblogs.org. Oggi alle 23 in replica la solita buon cara vecchia Uru, voci, suoni e musiche dal continente. Probo. Saluti e Orghe si scrive con la K. Africano, buonasera a tutti. Viva Orghe Radio con Wombat. La E finale, ciao. The sunny side of the street, the sunny side of the street, the sunny side.